24 mattino. L'Italia si desta. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buongiorno e ben alzati, buona mattina, buon venerdì 12 aprile da Gianfranco Fabi, al suo ultimo giorno di impegno, lunedì tornerà Alessandro Milan a questi microfoni. Buongiorno con queste note di Bob Dylan. Quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si possa chiamare uomo? E quanti mari deve sorvolare una bianca colomba prima che possa riposare sulla sabbia? E quante volte le palle di cannone dovranno volare prima che siano per sempre bandite? La risposta, amico, sta soffiando nel vento. La risposta sta soffiando nel vento. Can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buongiorno, Tobias Piller. Buongiorno. Corrispondente italiano del Frankfurter Süddeutsche Allgemeine e osservatore, grande osservatore della realtà italiana. La risposta è scritta nel vento. Come vede l'Italia in questa fase? L'Italia la vedo in due crisi, perché da un lato dovrebbe fare delle riforme per stare sul mercato globale e così per essere competitivo in questo mercato globale con più concorrenti, e quando si è più competitivo si ha anche di nuovo più posti di lavoro e più benessere. Ma per fare queste riforme ci vuole anche un sistema politico che funziona e arriva a riforme velocemente e poi anche produce riforme che sono anche riconosciute come legittime. E un sistema politico che è in grado di fare queste riforme, l'Italia al momento non sembra avercelo. Ecco, in questa prospettiva si parla ormai molto di questa necessità di larghe intese, anche oggi tutti i giornali, li vedremo dopo nella rassegna stampa che inizieremo alle 7:15, sottolineano la necessità di rompere un po' gli indugi, di superare gli vecchi schemi, di fare l'unica cosa in fondo possibile, un accordo tra la destra e la sinistra, e fare un governo che affronti appunto quello che giustamente Piller diceva, fare le riforme per rilanciare l'economia, per fare per sostenere appunto questo paese nella sua competitività. La Germania ha avuto in due fasi della sua storia dei momenti simili e le larghe intese, l'accordo, il grande accordo di governo è stato fatto. Ecco, è un esempio questo che si possono superare gli schemi ideologici e in momenti particolari fare quelli che in Italia si chiamano i governissimi e fare quelli che con un termine un po' dispregiativo che non si capisce perché, lo sottolinea per esempio Luca Ricolfi sulla stampa, sia mai entrato come un epiteto malvagio, ecco questo inciuccio che sembra essere un bollo per cui non si può fare più nulla su questo fronte. Ma queste larghe intese, questo accordo tra destra e sinistra, la Germania dimostra che si può fare e dà buoni frutti in tempi ovviamente limitati. Tobias Piller. Ma si è fatto qualche cosa che poteva essere utile per dopo. Alla ultima grande coalizione si è fatto delle riforme di costituzione che hanno un po' riordinato le competenze tra le regioni, che in Germania si chiamano Länder, e da un lato e dall'altro lato il governo centrale. Così si è un po' tolto il miscuglio di competenze, che c'è uno è competente per una cosa e l'altro per l'altra e non tutti per tutto. E dall'altro lato si è fatto una riforma delle pensioni con la pensione a 67 anni tra qualche anno. Questo che comunque l'Italia ha fatto anche col governo tecnico. Sì, questo l'Italia l'ha fatto col governo tecnico, però è importante questa sottolineatura delle riforme istituzionali. Uno dei problemi, uno dei blocchi italiani è il fatto che ci siano due camere che hanno gli stessi compiti, che sono elette in modo diverso, con una legge elettorale. Lo vedremo tra l'altro, parleremo di legge elettorale, di possibili riforme nell'ultima parte di questa 24 mattina, dalle 8:15 in poi, con costituzionalisti, con politici, con osservatori. E vedremo appunto come può essere possibile, doveroso forse, come sottolineano tutto, cambiare la legge elettorale, anche se sottolineare appunto il fatto che si debba cambiare raccoglie l'unanimità, ma il come si deve cambiare raccoglie invece molte divisioni. E su questo fronte forse l'esperienza tedesca è un'esperienza che dimostra che ci può essere una legge elettorale che dà stabilità. In fondo i governi in Germania hanno dimostrato una sufficienza stabilità. Qual è il mistero di questa legge elettorale che dà stabilità ai governi in Germania? Tobias Piller. Non direi che è tutto ideale, anzi la Germania ha avuto sempre più governi, più partiti in Parlamento, e così qualche volta stava anche sulla soglia dell'ingovernabilità, e per questo si è fatto la grande coalizione in queste situazioni anche di difficoltà di fare un governo. In generale comunque adesso i socialdemocratici dicono no, in qualunque modo non faremo un governo di minoranza, così anche se non gli piace la grande coalizione, non vogliono una situazione destabilizzante, ma così non dico che in Germania tutto funziona a meraviglia, anzi io penso ogni tanto bisogna cambiare anche la legge elettorale, perché tra da un lato avere equità nel rispecchiare la voglia dei elettori e va bene, è l'altro obiettivo della legge elettorale, sempre fare un governo stabile, e tra questi due obiettivi bisogna trovare un punto di equilibrio, e qualche volta bisogna andare più verso la stabilità. E dove si va in Germania? In Germania si vota in autunno, ci sono anche qui sondaggi, e i sondaggi dicono che Angela Merkel sembra che abbia qualche possibilità in più dei suoi avversari, abbia la possibilità di essere riconfermata. Sarebbe, mi si permette il termine, un'anomalia in questo periodo dove i governi in carica vengono sempre battuti dagli elettori. Sì, i sondaggi dicono la Merkel ha 2/3 di approvazione al momento, e i socialdemocratici il loro candidato più intorno a 1/4, ma ieri l'ex presidente degli industriali tedeschi Keitel ha detto a Roma che anche se dovessero vincere i socialdemocratici, fare una coalizione con i Verdi, la politica verso l'Europa non cambierebbe. Quindi ecco, anche in questa prospettiva, comunque finiranno le elezioni, la politica verso l'Europa non cambierebbe. L'Europa però sta sollecitando la Germania a cambiare un po' politica, a essere un po' meno rigorosa, e a fare anche lei, che in fondo è la prima beneficiaria della moneta unica europea, perché appunto con un euro a questo livello le esportazioni tedesche, come vediamo, l'industria tedesca riesce a conquistare sempre maggiori posizioni, anche se in questa fase mostra anch'essa qualche fiato grosso, qualche respiro difficile. Ecco, la Germania dovrà fare qualche passo per alleggerire un po' anche il resto d'Europa, Tobias Piller. Direi che è una leggenda italiana che solo la Germania avesse approfittato dell'euro, perché fino all'euro, fino alla decisione sull'Italia che entra nell'euro, i tassi di interesse italiani erano molto molto più alti, e così il grande dividendo dell'euro era per l'Italia avere interessi bassi sia per lo Stato sia per i cittadini. forse non è stato sfruttato bene, ma sicuramente non è stato sfruttato bene. Comunque il punto della Germania non è di dire dovete risparmiare, questo lo dice il mercato finanziario, se uno vuole essere credibile di fronte ai creditori deve avere una prospettiva di rientrare dal debito, ma a parte questo l'idea in Germania è bisogna fare crescere l'economia, ma come si fa crescere l'economia comportando più posti di lavoro nel proprio paese e non esportando come l'Italia i posti di lavoro da un'altra parte, ma dal alto punto è anche che per questo bisogna fare delle riforme, forse un po' doloroso, ma dall'altro tra qualche anno poi si approfitta, come forse la Germania, con più crescita, più posti di lavoro e anche più benessere. Ma lì si arriva a questo traguardo non aumentando il debito, non dando più soldi da intermediare ai politici, non facendo semplicemente un deficit in più, perché questo non mi sembra la strada per arrivare a questo obiettivo. Grazie mille per queste osservazioni, Tobias Spiller, un programma certamente ambizioso. Sappiamo benissimo che il problema è quello dell'efficienza, non della maggiore spesa, ma della maggiore efficienza della spesa, e averci ricordato appunto che l'Italia ha avuto lunghi anni in cui con tassi di interesse bassi e con una crescita non eccezionale, ma comunque una certa crescita, avrebbe dovuto in quegli anni avviare un risanamento più forte dei conti pubblici. Non l'ha fatto e ne paghiamo ora anche le conseguenze e un costo anche maggiore. Grazie a Tobias Piller, corrispondente italiano del Frankfurter Süddeutsche Allgemeine. Diamo la linea al traffico. 24 mattino. Buongiorno, bentornati a 24 mattino. Dopo aver parlato con Tobias Piller, corrispondente italiano della Frankfurter Süddeutsche Allgemeine, abbiamo con noi per prendere un caffè questa mattina e per risvegliarci Armando Massarenti. Buongiorno Armando. Buongiorno. Armando Massarenti. Buongiorno. Giornalista, filosofo, responsabile del supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Ecco, tra l'altro il Sole 24 Ore da oggi ha in edicola il numero speciale di Il, un numero speciale dedicato al design, dalla alla K74, firmato dal design Martino Gamper, con un saggio del critico d'arte Francesco Bonami. Il è il supplemento mensile del Sole 24 Ore, un supplemento che peraltro è stato già premiato in varie occasioni proprio per il suo design, per la sua capacità innovativa, e un numero che parla particolarmente del design è particolarmente accattivante, quindi il numero speciale di Il da oggi in edicola col Sole 24 Ore. E invece domenica ci sarà il supplemento domenicale. Armando, con quali sorprese? Ma dunque, ci sarà anche una parte dedicata al design, ma non è su quella su cui volevo concentrare l'attenzione. C'è un ricordo molto bello di Margaret Thatcher, paradossalmente musa del cinema, perché odiata dai cineasti, lei stessa odiava il cinema, ma c'è stata una grande fioritura del cinema ed Emanuela Martini ci ricorda quanto cosa è successo appunto nell'era della Thatcher e anche dopo. Il cinema inglese era in crisi, ma è ripreso proprio grazie ad una legge del 79 che era stata voluta dalla Thatcher, che prevedeva degli sgravi, forse un modello interessante anche per l'Italia di oggi. Ma la copertina in realtà è di arte, è una copertina veramente straordinaria, perché parla di una esperienza personale di un nostro grande collaboratore, Alvar González Palacios, che è un grande esperto, un grande connoisseur di arte, soprattutto di oggetti molto preziosi, e parla di un segreto, di un tesoro segreto che nessuno immaginava che esistesse realmente, finché lui nel 1980, e poi gli hanno anche intimato di non dire mai che lo aveva visto, finché nel 1980 non l'aveva scoperto, ed oggi è oggetto di una splendida mostra al castello di Versailles. E ci racconta tutta la storia, da par suo, questi ori meravigliosi che erano donati da tutte le corti europee a Gerusalemme e che erano state raccolte e non erano soprattutto scomparsi, come avveniva quasi sempre per gli oggetti così preziosi, soprattutto se erano d'oro. Certo. Ecco, quindi lui sulla base da buon segugio, innanzitutto aveva scoperto una serie di documenti che indicavano l'esistenza di questi oggetti, ma soprattutto a un certo punto è andato a Gerusalemme ed è riuscito, grazie a un frate francescano che custodiva questa parte della chiesa di Gerusalemme, costruiva questi ori, glieli ha fatti vedere, gli ha detto di non dirlo mai, insomma è una lunga storia veramente molto interessante, anche molto divertente. Ma come mai finisce a Parigi? I francesi sono più veloci di noi nel capire le possibilità della cultura, questo è un problema forse. Certo, hai ragione, questo è un tema, se pensi che a Londra abbiamo una bellissima mostra su Pompei, in questo momento al British Museum, ma dobbiamo forse riflettere sul fatto che non che manchino in Italia, per esempio abbiamo una bellissima mostra a Padova su Bembo, ma però insomma devo dire che molto spesso sono più in grado di realizzare quelle mostre che poi hanno un grande successo e che invece noi in Italia a volte facciamo un po'. Sì, proprio ieri Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera segnalava appunto che l'incasso, per stare alla realtà economica dei musei italiani, non arriva all'incasso del solo museo del Louvre a Parigi, e questa è un dato forse disarmante sul fronte culturale. Noi su questo abbiamo battuto molto, come probabilmente gli ascoltatori sanno, da più di un anno, anche con il nostro manifesto per la cultura, e tra l'altro proprio domenica ci sarà un bel intervento, il primo intervento pubblico che noi pubblichiamo, del nuovo presidente del FAI, che molto si è battuto e che anche poi è una delle realtà, il Fondo Ambientale Italiano, delle realtà più interessanti dal punto di vista di un ente privato che fa qualche cosa che è interessante dal punto di vista pubblico. C'è un bellissimo intervento di Andrea Carandini, appunto il nuovo presidente, sul paesaggio, su quanto vale il nostro paesaggio dal punto di vista, proprio dal punto di vista civile in realtà, il rendersi conto di quanto il nostro paesaggio, tutta la bellezza che ci circonda, è un costrutto che è rimasto nei casi migliori, nel caso che si è preservato intatto per secoli, ed è una sorta di guscio della nostra identità collettiva, con una bella immagine che la contrappone invece all'io degli artisti che troviamo negli interni, insomma, delle nostre. Sì, bisogna far riprendere anche a chi guarda, a chi legge, forse un po' di passione per il bello, un po' di passione per quelle cose che ci circondano, e forse riflettere, meditare su queste cose può essere importante. Un'ultima rapida annotazione, Armando Massarenti, responsabile del supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Ma posso citare velocemente due cose: una bella intervista a Peter Greenaway, che anche lui attacca la incultura, l'analfabetismo delle immagini, questa volta dei suoi colleghi registi cinematografici, e fa capire quanto invece anche nel cinema sia importante avere una cultura visiva. E poi, visto che siamo in tema, a Torino c'è la Biennale Democrazia, abbiamo pensato di dedicare una delle due pagine di filosofia, di scienza e filosofia, a Montesquieu, il grande padre dell'idea della separazione dei poteri e quindi della democrazia. È appunto un ritratto scritto da Maria Bettetini, Barone della Democrazia, l'abbiamo intitolato. Ecco, grazie mille, ci fermiamo qui. Armando Massarenti, grazie, responsabile del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, del Sole 24 Ore e degli altri quotidiani. Parleremo dalle 7:15 in poi, a più tardi. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Speriamo che l'Italia si desti. Buongiorno, ben ritrovati da Gianfranco Fabi. Adesso guardiamo un po' fino alle 8 ai giornali, poi dalle 8:15 alle 9 parleremo ancora di politica, il lavoro dei saggi al capolinea, le ipotesi di legge, di nuova legge elettorale, quali potranno essere i prossimi sviluppi sul fronte politico, cose di cui parlano i quotidiani e di oggi, centrati su due temi fondamentali, due elementi: il problema del Quirinale, l'opportunità del Quirinale, il voto che ci sarà, che inizierà ad esserci il 18 aprile per rinnovare appunto il mandato al Presidente della Repubblica, nominare un successore a Giorgio Napolitano, e il problema del governo, che è un problema che corre parallelamente a quello del Quirinale e che comunque è intrecciato, volente o nolente, a quello appunto del Quirinale. E

Siamo sicuri di avere tutto questo tempo? Siamo sicuri che imprese, sindacati, lavoratori e famiglie, di fronte al dramma occupazionale che sta affondando l'Italia, abbiano voglia di essere richiamati a votare per l'ennesima volta? Siamo sicuri che le discriminanti su cui Bersani e i suoi stanno respingendo le offerte del nemico siano anche le priorità dei cittadini? È l'ultima domanda di Luca Ricolfi sulla Stampa. Ma soprattutto, siamo sicuri che per il PD gli unici due modi di riconquistare la credibilità perduta siano guadagnare umilmente la benevolenza di Grillo e sottrarsi con sdegno all'abbraccio mortale del PDL? E qui la conclusione di Luca Ricolfi. In fondo, i cittadini elettori il loro messaggio l'hanno già mandato ed è un messaggio chiaro, cari politici. Così non potete andare avanti. O vi ritirate o cambiate registro. Ma il momento di cambiare è adesso, non è nell'ennesimo bagno elettorale. Rivotare è solo un segno di resa della politica. Significa dire agli elettori: voi ci avete dato un segnale, noi non siamo stati capaci di raccoglierlo. Noi siamo quelli di sempre, prigionieri delle nostre piccole beghe, incapaci di guardare un po' più in là. Era l'articolo molto esplicito di Luca Ricolfi, un invito alla classe politica a muoversi, ad affrontare i problemi con degli schemi nuovi, con delle capacità nuove di risolvere, se no ancora una volta, come già nel passato, la classe politica detterà solo la propria incapacità di affrontare i problemi, e questo certamente non serve al Paese e non serve soprattutto al futuro del nostro Paese e alla possibilità di ripresa. E anche il Messaggero, con Piero Alberto Capotosti, ha un editoriale che parte dalle larghe intese necessarie al tavolo del governo, affermando appunto che si apre una settimana molto complessa per la politica italiana, ma la stella polare della lotta deve essere l'interesse generale del Paese. Come non sottoscrivere queste note di Piero Alberto Capotosti, si può discutere sulle soluzioni, ma la politica deve avere il coraggio di trovare delle soluzioni. 24 mattino. Eccoci per l'ultima parte della lettura dei giornali di 24 mattino, poi riprenderemo alle 8:15 parlando di politica, del lavoro dei saggi, della nuova legge elettorale. Ecco, vi sottolineo che sul Sole 24 Ore c'è un'intervista di Dino Pesole a Carlo Zerio Ciampi. Carlo Zerio Ciampi ricorda appunto, auspica che ci sia un presidente condiviso, e Dino Pesole ricorda che il metodo Ciampi, quando nel 13 maggio del 99 Ciampi venne eletto al primo scrutinio con la maggioranza superiore ai 2/3 che viene richiesta appunto nei primi 3 scrutini, e Ciampi dice: occorre uscire subito dallo stallo perché la crisi è gravissima, non sembra che si abbia l'esatta percezione che le priorità assolute sulle quali dovrebbero convergere tutte le forze politiche, quale che sia il prossimo governo, sono crescita e occupazione. E dice Carlo Azeglio Ciampi: occorre agire per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla crescita, prima e fra tutto l'eccesso di oneri burocratici. E questa intervista di Dino Pesole sul Sole 24 Ore. Ma per parlare solo le 24 ore c'è in linea Daniele Bellasio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno. Caporedattore del Sole 24 Ore, l'intervista a Ciampi, ma oltre a questo cosa c'è sul giornale di oggi? Ma sono essenzialmente due i grandi temi oggetto di approfondimento. Il primo tema è quello che sta succedendo sui mercati dopo la decisione della Banca Centrale Giapponese di, come dire, cambiare completamente la politica monetaria, avviare una aggressiva ed espansiva politica monetaria in Giappone. Abbiamo visto che da questa decisione c'è stata come una marea di liquidità in movimento tra i vari mercati, dall'Asia verso l'Europa e ora anche verso i paesi periferici, chiamiamoli così, dell'Europa, tra cui anche l'Italia. Quindi c'è una approfondita inchiesta di Moria Longo su dove stanno andando i capitali che si stanno muovendo dal Giappone, più una bussola dei risparmiatori di Luca Davi che spiega come agire sempre con prudenza nei momenti in cui sui mercati ci sono rally di questo tipo dovuti a fattori ben specifici come appunto la politica monetaria della Banca Centrale Giapponese. E l'altro grande tema è ovviamente come sbloccare i debiti della pubblica amministrazione. Il decreto è entrato in vigore il 9 aprile, sul Sole 24 Ore c'è una guida di 16 pagine che spiega per filo e per segno come si fa per, se si è una piccola, media azienda, una grande azienda, sbloccare un debito nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche nei confronti dei comuni, che cosa cambia, che rischi ci sono, anche di vedere poi magari aumentare altre tasse a livello di enti locali come l'IMU e la TARES, e quindi che collegamento c'è tra tra lo sblocco dei debiti e il rischio di nuove tassazioni, ecco. Grazie Daniele, sul Sole 24 Ore c'è anche, continua appunto, l'analisi della situazione economica, tra l'altro appunto si ricorda oggi e domani a Torino c'è il convegno di Confindustria della piccola impresa le imprese riunite a Torino chiedono appunto che la manifattura, che l'impresa, che l'industria torni al centro dell'interesse e dell'attenzione di una politica che purtroppo sembra stare e battere il passo. Grazie a Daniele Bellasio, continuiamo la nostra lettura dei giornali ancora per qualche minuto. Ecco, dalla Repubblica due cose, una inchiesta sul fronte delle spese dello Stato, lo Stato spreca 2 miliardi, esperti di tartufi, misuratori di neve, regali a parenti e amanti, lo scandalo di 500.000 signor Nessuno. È un'inchiesta appunto che osserva come gli amministratori locali, ma anche lo Stato centrale, abbiano una facilità forse eccessiva, ma sicuramente eccessiva, di spesa. Nel pozzo di italiche miserie e stratagemmi per sopravvivere bene c'è di tutto. Il consulente che da 20 anni siede a fianco dei ministri e nel 2011 strappa l'ennesimo contratto da 170.000 euro. L'ex soubrette chiamata alla difesa a lavorare sulla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, l'esperto di tartufi e lo studioso di abitudini riproduttive dei cormorani. Ma in questa Babele di uomini e incarichi, forse l'interrogativo più cocente e anche il più banale: era veramente necessario che il comune di Potenza affidasse una consulenza tecnica di 28.868 euro per verificare la correttezza delle fatture di Telecom Italia? Daniele Auteri sulla Repubblica, un'inchiesta sugli sprechi dell'amministrazione italiana. La Repubblica ha anche un articolo di Tony Blair, ex premier inglese, che sembra rispondere quasi ai commenti che nei giorni scorsi si sono avuti su Margaret Thatcher, sulla morte di Margaret Thatcher, e difende il proprio operato. Il paradosso della crisi finanziaria, scrive Tony Blair, nonostante tutti siano del parere che sia stata provocata da una carenza di regolamentazione dei mercati, è che non ha prodotto un deciso spostamento dei consensi verso la sinistra. Ma quello che potrebbe succedere è che la sinistra si convinca che questo spostamento è avvenuto e si comporti di conseguenza. Il rischio evidente qui in Gran Bretagna è che il paese ripiombi nella familiare battaglia tra destra e sinistra. La familiarità deriva dal fatto che questa contesa è l'elemento dominante del XX secolo. E poi Blair appunto difende il proprio operato, difende il fatto che la crisi finanziaria non ha creato l'esigenza di cambiamento, l'ha solamente messa a nudo. La demografia, la composizione della popolazione delle fasce d'età, la tecnologia e la globalizzazione ci obbligano ad apportare modifiche radicali ai sistemi che abbiamo creato dopo il 45, e questo a prescindere dalla catastrofe finanziaria del 2008 e delle sue conseguenze. Sembra appunto questa di Tony Blair un appello a che la sinistra diventi più realista. Infatti scrive: il Labour deve essere molto più deciso nello smentire la tesi che è stato lui a creare la crisi. Nel 2007-2008 il saldo di bilancio corretto per gli effetti del ciclo era inferiore all'1% del PIL, il debito pubblico era nettamente più basso che nel 1997, l'anno in cui i laburisti erano saliti al potere. Nei 13 anni di governi del Labour il rapporto debito-PIL è stato migliore che sotto i governi conservatori. Quindi Tony Blair difende in fondo il suo operato dopo appunto i governi che sono stati un po' omaggiati in occasione, come si fa sempre, in occasione della morte di Margaret Thatcher. Due piccole segnalazioni: due quotidiani parlano del Papa di Benedetto XVI e Corriere della Sera affronta il tema: la salute di Ratzinger, solo problemi legati all'età, padre Lombardi. Dei giorni difficili dopo la rinuncia, il Corriere della Sera, Gian Guido Vecchi spiega un po' la giornata del Papa. Rispetto a Roma si sveglia un po' più tardi, la recita del breviario e le lodi, la lettura dei giornali, i libri, la riflessione e la preghiera, dopo pranzo il riposo e una passeggiata dei giardini recitando il rosario, la cena, i telegiornali, le letture e la preghiera prima di andare a letto. Quindi la giornata di un pensionato. E il Messaggero invece nelle sue cronache fa un po' un pettegolezzo, si parla a Roma, la curiosità curiosità in retroscena, i calzoni neri del Papa, un caso in Vaticano. La tradizione ammette solo il bianco e il rosso per tutti gli indumenti, e invece Papa Francesco sembra che abbia i calzoni neri. Mattino, la politica nel tunnel. Bentornati, bentornati a 24 mattino, la politica nel tunnel, un tunnel che ha comunque alcune vie d'uscita che deve trovare nei prossimi giorni, in primo luogo quella del Quirinale, con le votazioni che inizieranno il 18 aprile. Buongiorno a Piero Ignazi. Buongiorno. Piero Ignazi, docente di scienze politiche a Bologna, editorialista della Repubblica. Ecco, proprio ieri Ignazi ha scritto un articolo in cui, in cui diceva: in fondo questo lavoro dei saggi non è poi un lavoro, un tempo perso, è servito a qualcosa. Piero Ignazi, è servito a qualcosa? È servito, al di là di quello che produrranno, sembra che però sulla cosa più importante, vale a dire la legge elettorale, che è un po' il nodo intorno al quale tutto si stringe, non ci sia ancora un risultato importante, però hanno avuto un altro, diciamo, side effect, effetto laterale, che era quello di stemperare un po' la tensione, far cadere un po' il livello di conflittualità tra i partiti e consentire quindi quell'incontro che altrimenti non ci sarebbe stato, quello dell'altro giorno, tra i leader del PD Bersani e i leader del PDL Berlusconi. Cioè, di fronte a questa realtà il dialogo sembra la strada necessaria, direi quasi indispensabile, soprattutto in vista dell'elezione del Quirinale. Ricordiamo, si comincia il 18 aprile, per le prime tre votazioni ci vogliono i due terzi dei partecipanti, che sono Camera, i deputati, i senatori e i rappresentanti regionali. Dalla quarta votazione basta la maggioranza semplice. Recentemente il caso di Carlo Azeglio Ciampi, ricordato oggi dal Sole 24 Ore, fu eletto alla prima votazione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di avere un presidente largamente condiviso. È solo un auspicio o è qualcosa di ancora possibile, Piero Ignazi? Ma se mi consente, qui ho una posizione nettamente differente da quella espressa tutti i giorni, mi sembra, da tutti i commentatori, e vedo anche da Folli, che ricorda Ciampi. Perché non ricordare Napolitano? Come è stato eletto Napolitano? Napolitano è stato eletto dalla sola maggioranza di centrosinistra, non è stata quindi una elezione condivisa, è stata una elezione fortemente avversata dal centrodestra, ma il punto è la qualità della persona che viene eletta. Quindi si ricorda continuamente gli esempi, si ricorda così, avete gli esempi delle elezioni condivise, non si ricorda la più recente, che non è stata assolutamente condivisa, ma che ha prodotto, e credo questo sia un riconoscimento unanime, un eccellente Presidente della Repubblica. Sì, ma resta il fatto. Lascerei perdere un po' questa retorica della condivisione, che trovo è una retorica anche giusta da un certo punto di vista, ma rischia di diventare un po' stucchevole, perché fa innanzitutto fa dimenticare che esistono altri casi dove questo non c'è stato, e fa dimenticare l'elemento più importante, che è il profilo e la qualità della persona da leggere. No, no, questo è fondamentale, indubbiamente, Ignazi. Però c'è anche il fatto che di fronte a una realtà bipolare in cui c'è una maggioranza, c'è un'opposizione, chiaramente è quasi naturale che ci possa essere un rappresentante eletto dalla maggioranza. Ma non siamo più in una realtà bipolare, siamo ormai in una realtà, se non tripolare, almeno quadripolare, e con un quarto polo più piccolo, ma che comunque esiste. Allora, anche in questa realtà forse l'auspicio di una condivisione è da mettere in secondo piano, Piero Ignazi? La condivisione, ripeto, è sempre molto importante, perché appunto il Presidente della Repubblica non era una figura politica, quanto lo sia diventato, questo è un altro argomento molto importante, cioè è stata una mutazione in corso in questi 7 anni a figura del Presidente della Repubblica, questo lo riconoscono tutti, certo. Però è comunque quella persona che identifica, incarna l'unità nazionale, e quindi deve avere le qualità di essere un super partes. Il super partes viene dato dalla storia di una persona, non tanto da chi lo candida, è la storia di una persona che lo fa super partes, non a coloro che lo candidano. Quindi anche qui ottima idea, se tutti sono concordano su una figura che deve essere di garanzia per tutti, deve essere una persona in cui tutti si riconoscono, e in effetti in questi anni gli italiani sono riconosciuti praticamente solo nella figura del presidente Napolitano, ma non necessariamente questa figura può essere identificata attraverso un compromesso che a volte è un compromesso al ribasso per quanto riguarda le caratteristiche e le qualità della figura. Ecco, in questo senso una figura super partes, sopra i partiti, sopra appunto i condizionamenti della politica, in questa fase in cui l'antipolitica ha così spazio, trova così consensi, c'è un consenso all'antipolitica, c'è anche la possibilità di trovare una persona extra partes, che sia al di fuori. Si sono fatti alcuni nomi che poi sono rimasti, lì appesi, di alcune personalità, si parla appunto per esempio di Gino Strada, si parla di Riccardo Muti, ecco, sarebbe un segno però di una politica che cede le armi. Sì, queste cose sono sempre successe, come lei si ricorderà, prima sono state sempre candidature più fantasiose. Con tutto il rispetto per Strada e Muti, di cui ha fatto i nomi ovviamente. Sono tantissime persone in questo paese che hanno ottime qualità per fare il loro lavoro e magari qualcun altro, ma insomma, certamente io credo che se dovessi sbilanciarmi per indicare un profilo, io credo che oggi il profilo più importante del Presidente della Repubblica sia quello del suo riconoscimento internazionale, non sia tanto e solo quello di essere una figura super partes che rappresenta un po' tutti gli italiani, ma se questo non ha una caratura internazionale, non è riconosciuto oggi e non è riconosciuto non solo in Europa ma in tutto il mondo, beh, credo che l'Italia perda una grande occasione per riuscire a rialzare un po' il suo standard di riconoscimento e rispettabilità e reputazione internazionale, cosa di cui abbiamo assoluto bisogno, cioè necessario per via delle recenti vicende mantenere, grazie al governo Monti o addirittura anche innalzare, il prestigio recuperato in questi mesi. E quindi io credo che la prima caratteristica di un presidente oggi dovrebbe essere quello di una persona che può parlare da pari a pari, perché è riconosciuto come tale, con tutti i leader del mondo. Ecco, ma questo restringe molto la rosa dei possibili candidati. Sì. Lei ci parla da Bologna, sta pensando a qualche vicino di casa? Questo ovviamente, io penso a due persone, se vogliamo fare dei nomi. Le due persone che hanno queste caratteristiche sono Giuliano Amato e Romano Prodi, per parlare chiaro. Certo. Ovviamente Romano Prodi ha un handicap in più rispetto, ma anche un pregio rispetto a Giuliano Amato. L'handicap di Romano Prodi è quello di essere stato un politico molto ovviamente divisivo, perché di una parte contro l'altra, identificato come un nemico quindi da parte di un terzo oggi dell'elettorato, ma che rappresenta forse anche più nel sentimento popolare di un terzo dell'elettorato, e quindi questo è un handicap, perché è quell'elemento di unità, di rappresentazione di tutto i cittadini verrebbe un po' a mancare e dovrebbe conquistarselo, quindi volta a volta ha il vantaggio di essere riconosciuto in tutto il mondo, soprattutto nelle potenze emergenti, Cina e India, per via dei suoi rapporti intercorsi negli anni di Presidente della Commissione Europea. Giuliano Amato ha un profilo meno divisivo, ha meno rapporti con quella parte del mondo dei paesi emergenti, ottimi rapporti nell'ambito europeo e atlantico, ma molto meno nelle parti, come dire, emergenti del paese. Le sue qualità intellettuali sono note e quindi certo questo non costituisce un grande handicap per recuperare in fretta queste capacità. Ecco, facendo una previsione, quale potrà essere il ruolo del Movimento 5 Stelle e di Grillo? Quello di guastatori o quello di collaboratore alla scelta di un presidente? Ma io temo che il Movimento 5 Stelle sia ormai indirizzato, difficile fare una previsione, perché chiaramente siamo di fronte a un oggetto magmatico che deve ancora solidificarsi in qualche maniera. Credo che stia prevedendo una elezione, una riproposizione a breve tempo e stia quindi valorizzando gli elementi di alterità rispetto a tutto, rispetto a tutti gli altri, rispetto allo schieramento dei partiti nazionali, e non voglia quindi mescolarsi contaminarsi in nessuna maniera con gli altri partiti, voglia mantenere la sua purezza rivoluzionaria contro tutti, che è una strategia di lungo periodo, forse anche utile per i suoi successi elettorali, ma che in questo caso, come giustamente ha detto Pierluigi Bersani, mantiene 8 milioni di voti in frigorifero. Certo. Ecco, un'ultima brevissima domanda, sarebbe però bizzarro che il Parlamento elegga un presidente che poi scioglie lo stesso Parlamento. Beh, bizzarro, però, come dire, è un po' delle cose. È un po' delle cose. 24 mattino. Bentornati all'ultima parte di 24 mattina. Abbiamo sentito nella prima parte Piero Ignazi, politologo, che ci ha parlato della situazione politica. Adesso cerchiamo di entrare nel merito delle novità della legge, delle possibili novità della legge elettorale, delle riforme istituzionali. Saluto il professor Roberto Dalimonte. Buongiorno professore. Buongiorno. Docente di sistema politico italiano alla LUIS, editorialista del Sole 24 Ore, saluto il collega Ugo Magri, buongiorno Magri. Buongiorno. Editorialista della Stampa. Ecco, Ugo Magri, ieri hai scritto un articolo in cui anticipavi alcuni temi dei saggi, di quello che questi saggi presenteranno tra poche ore, un documento. Ecco, sul fronte delle riforme istituzionali e della legge elettorale, che cosa proporranno i saggi, Ugo Magri? Dunque, su questo poco, nel senso che a quanto se ne sa l'idea loro è soprattutto di offrire un percorso di riforma, diciamo metodologico. Si sa che ovviamente ci saranno delle proposte di merito, però non hanno sciolto quanto risulta il nodo di fondo, presidenzialismo, non presidenzialismo, ci sono delle opzioni sul campo e poi però loro dicono è più importante indicare la strada che bisogna seguire per arrivare alla riforma della Costituzione, cioè loro dicono bisogna fare la convenzione è un po' la proposta che fa anche Bersani, loro l'articolano un pochino meglio, seguono una strada che sotto questo punto di vista era già stata seguita in passato, dicono bisogna fare un ordine del giorno condiviso dai grandi partiti, in base a questo ordine del giorno questa convenzione si può mettere a lavorare subito, poi arriverà una legge costituzionale che le attribuisce i poteri, sono tutte cose che il professor Dalimonte ci potrà spiegare meglio se vorrà, perché è la sua materia. È qui per questo infatti. Allora, una volta fatta questa riforma costituzionale che attribuisce i poteri alla convenzione, la convenzione completerà i suoi lavori, farà la sua proposta al Parlamento, ma sarà il Parlamento a votarla, cioè non sarà l'organismo convenzione a decidere la nuova Costituzione, secondo lo schema che propongono i saggi, ma sarà appunto questa convenzione, sarà il Parlamento, questo ecco. Per evitare che ci siano due organismi che in materia deliberano creando confusioni e tensioni. Ecco, però ci sono due piani, Magri. Uno è quello appunto della riforma, dell'architettura della Costituzione, l'altro è quello della legge elettorale, che non ha bisogno di una legge costituzionale, ma può essere fatta con una legge normale, è quello che molti auspicano per fare delle nuove elezioni che diano una maggioranza stabile. Sul fronte della legge elettorale i saggi non entrano. Diranno delle cose, ma quello che mi hanno spiegato è che la legge elettorale discende dal tipo di sistema che si adotta e su questo quelli con cui ho parlato, praticamente tutti, mi dicono che hanno scelto la strada di essere rigorosi, cioè di non tirar fuori modelli di sistema elettorale che prescindano dalla scelta di fondo che dovrà essere fatta. Siccome la scelta non viene fatta, c'è stato Quagliariello che si è molto battuto dei quattro saggi che si occupano di riforma istituzionale per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, però non ha vinto, nel senso che è considerata questa ipotesi in quanto minoritaria. Le altre ipotesi sono quelle del premierato, ma anche lì c'erano ipotesi non del tutto conformi, nel senso che Violante diceva una cosa, Unitedi diceva un'altra, così mi è stato raccontato, e quindi staremo a vedere, ma insomma su questo è proprio sarà proprio la materia, se mai nascerà questa convenzione, di cui dovrà occuparsi la convenzione stessa. Una volta scelto il sistema, di fondo l'architettura, poi dopo ne deriverà anche il sistema elettorale più adatto. Ecco, io ricordo l'800 24 00 24, se qualche ascoltatore volesse chiamare, oltre ai messaggi 349 238 6666, che stanno già arrivando, messaggi che devo dire sono molto critici verso le ipotesi di cui parlavamo con il professor Ignazzi, di nuovo Presidente della Repubblica. Ecco, professor Dalimonte, questa convenzione allora cosa può essere? Forse una volta si chiamava bicamerale, una nuova mini assemblea costituente. Tempi lunghi comunque, professor Dalimonte, che cosa si prospetta per questa ipotesi di riforma costituzionale? Ah, certo, tempi lunghi, se si passa per l'idea di una convenzione, quindi non conciliabili con l'idea di tornare a votare a breve. In ogni caso volevo aggiungere che prima ancora della riforma elettorale, ormai lo dico da un po' di tempo, va fatta la riforma del Senato. La riforma del Senato non è indipendente dalla riforma elettorale, anzi va prima fatta la riforma del Senato e poi la riforma elettorale, o quantomeno le due cose devono procedere insieme, perché noi abbiamo bisogno, qualunque sia il sistema elettorale, noi abbiamo bisogno di un sistema elettorale per una Camera sola, non per due Camere. E quindi bisogna modificare la Costituzione, questo richiede in ogni caso. Come minimo 6 mesi di tempo tra la votazione e l'altra come tempo tecnico, poi per arrivare alla prima votazione comunque ci vuole un tempo preparatorio, quindi diciamo il Parlamento dovrebbe costituire una commissione, chiamiamola come vogliamo, che deve studiare queste riforme, presentarle in Parlamento, votarle e fare queste due passaggi per poi cambiare la Costituzione. Sì, la Costituzione va cambiata, in ogni caso sarebbe secondo me un grave errore tornare a votare con questo sistema elettorale, anche se si introducesse il premio nazionale al Senato, una cosa che sento dire. Introdurre il premio nazionale al Senato non richiede un cambiamento della Costituzione, però torneremo a votare con un sistema in cui una parte significativa dell'elettorato vota in una Camera ma non nell'altra. E quindi anche solo questo elemento può produrre esiti diversi, ci potremmo comunque anche solo per questa disparità trovarsi nella stessa situazione in cui ci troviamo oggi. E anche questa modifica, la modifica dell'età di voto, cioè dare il voto ai 18 anni al Senato, richiede una riforma costituzionale, ma al di là di questo noi abbiamo bisogno di riformare il Senato. Noi siamo rimasti l'unico paese al mondo in democrazia parlamentare con un Parlamento paritario perfetto, come si dice. È una cosa assurda, sia dal punto di vista del sistema elettorale, sia dal punto di vista del processo legislativo, sia dal punto di vista dei costi della politica. Dobbiamo riformare il Senato, è ora di farlo, ora. Certo, quindi cambiare un po' l'architettura costituzionale in questa prospettiva è indubbiamente per dare più efficienza alla macchina dello Stato, però appunto questo richiede i tempi necessari, ma richiede anche che gli altri aspetti che sono altrettanto, se non forse più importanti, quella dell'economia, quella della gestione della cosa pubblica, siano gestiti da un governo nel pieno e effettivo potere di decidere di attuare le misure che sono necessarie. Quindi un governo in questa fase deve avere una prospettiva forse non di 5 anni ma abbastanza lunga da garantire l'amministrazione seria dello Stato e insieme di permettere al Parlamento di affrontare questi nodi costituzionali. E allora qui diventa appunto il problema complesso. Professor Dalimonte, di fronte a questa situazione, questa esigenza, che peraltro è condivisa, l'esigenza di cambiare anche su come poi la discussione è certamente aperta, però almeno l'esigenza di trovare una soluzione è condivisa. Professor Dalimonte. Certo, io credo che l'Italia abbia bisogno di un governo, del governo che governi l'economia e di un governo che faccia le riforme che stiamo aspettando da troppo tempo, riforme istituzionali oltre che economiche che noi stiamo aspettando da troppo tempo. L'Italia ha bisogno di un governo. Tornare a votare adesso, anche con piccole modifiche di questo sistema elettorale, è un grossissimo rischio. Ecco, sentirei prima di andare alle notizie sul traffico un ascoltatore o due. Gianfranco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Niente, io come semplice cittadino, avendo dei diritti anche, esporrei una proposta ai saggi, non so se le entreranno in considerazione. Il discorso è questo: la vera democrazia si fa con un'elezione del Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio fatta dal popolo. Questo è inutile girare intorno fin quando non si fa una cosa del genere, dove il popolo ha in virtù della Costituzione il diritto di dire e di scegliere il loro Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio. Buongiorno e grazie. Grazie mille. Il sistema francese, il sistema americano, un sistema sicuramente che ha i suoi pregi. Carla da Cuneo, buongiorno. Buongiorno, dottor Fabi. Mi dica. A proposito, va benissimo quello che ha detto l'ascoltatore precedente, sono anch'io per l'elezione diretta. E poi volevo dire che un Presidente della Repubblica italiana sarebbe l'ottimo Roberto Benigni, per la profondità dei suoi sentimenti e per una bella botta di cultura che darebbe a questa povera Italia. E intanto poi è conosciuto in tutto il mondo Roberto Benigni. Grazie per questa provocatoria, indubbiamente candidatura di una persona che è certamente un uomo di cultura, ma forse il Presidente della Repubblica dovrebbe avere un'altra immagine, ognuno deve fare bene quello che sa fare. 24 mattino. Eccoci per l'ultima parte di 24 mattino, la politica nel tunnel, i saggi stanno completando il proprio lavoro, consiglieranno al Presidente Napolitano i propri studi, le proprie argomentazioni nelle prossime ore. Intanto si avvicina la scadenza del 18 aprile quando inizieranno le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, intanto il governo è in ordinaria amministrazione, c'è un ascoltatore che al nostro 349-238-6666 ci scrive, ma in fondo la situazione sta migliorando, senza governo le cose vanno ancora meglio. Questo forse si riferisce al fatto che lo spread è sceso sotto quota 300 ieri, le borse stanno andando bene, però c'è un problema sociale molto forte, c'è un problema che necessita veramente delle misure direi urgenti, direi soprattutto incisive sul fronte dell'economia per cercare di ridare un po' di crescita a questo paese. Quindi ecco, non illudiamoci che senza governo si possa fare meglio. Certamente ci vuole un governo che faccia le cose giuste. Nicola da Latina, buongiorno. Buongiorno. Sentivo il vostro dibattito in virtù dei tempi per realizzare alcune cose. Per esempio, si è detto che per cambiare queste leggi ci vorrebbero almeno 6 mesi. Ma perché ci vogliono 6 mesi? Spiegatemi perché ci vogliono 6 mesi. Voglio dire, in un'azienda se c'è un problema si entra la mattina e si risolve dopo un giorno, dopo una settimana. Io non voglio semplificare le cose, però in questo contesto così particolare non ci possono volere 6 mesi, signori. Cioè devono fare le cose come vanno fatte e lo devono fare nel contesto in cui siamo, cioè di emergenza. Cioè si può cambiare una legge elettorale se loro vogliono, si può cambiare una costituzione se loro vogliono, anche in un mese. Veramente sarebbe un po' un colpo di Stato, mi scusi Nicola da Latina, ci sono delle procedure, la Costituzione prevede che per cambiare la Costituzione, dato che l'architettura del Paese è una cosa importante, ci vogliono i tempi di 2 letture in Parlamento a distanza di 6 mesi. Per fare la legge elettorale non c'è bisogno di 6 mesi, perché la legge elettorale non è una legge costituzionale. Per fare il governo non ci dovrebbero essere bisogno di 6 mesi, e il governo può intervenire, fare leggi ordinarie o anzi decreti nel giro di poche ore, e il Parlamento deve approvare questi decreti che comunque entrano in vigore immediatamente, ma il Parlamento deve approvarli entro 2 mesi. Quindi i termini di 6 mesi sono solo per leggi costituzionali ed è in fondo stato deciso così dai nostri costituenti per garantire che l'architettura dello Stato, i fondamenta dello Stato siano modificate solo con delle procedure che siano un po' più complesse delle procedure normali. Se ho sbagliato, il professor Roberto Dalimonte ha il diritto di correggermi. No, è giusto. Ma è come ho detto poco fa, in ogni caso, dato che ritengo che non si possa cambiare la legge elettorale senza cambiare il Senato, il voto ai diciottenni, sono le cose che abbiamo detto, in ogni caso delle riforme costituzionali ci vogliono. Ecco, abbiamo bisogno di riforme costituzionali, ma questo non deve impedire che il governo decida, che il governo operi, che il governo affronti i problemi del paese. Sono problemi di amministrazione non solo ordinaria ma anche straordinaria, e questo deve esserci un governo nella piena capacità, nella piena interezza delle sue funzioni. Enrica da Venezia, buongiorno. Buongiorno. buongiorno, buongiorno dottor Fabi. Io intervenivo perché sento spesso appunto anche questa mattina parlare di Senato, voto ai diciottenni. Ormai è un po' di tempo che mi chiedo, ma non sarebbe più utile, chiaramente tramite una riforma costituzionale, quindi comunque è una prassi immagino molto complicata, però non sarebbe più utile abolirlo il Senato? Che senso ha in Italia avere Camera e Senato e anche Presidente della Repubblica? Non vedo il ormai l'utilità, se non puramente di costi e di sostenimento, per carità, dei dipendenti pubblici, all'esistenza del Senato. Non ha senso, quando abbiamo una Camera con un'opposizione, una maggioranza, quindi comunque che possa argomentare, proporre, emettere decreti e quant'altro, non vedo il senso del Senato, proprio. Beh, non ha più senso, altro che voto i diciottenni che pensino a studiare e magari piuttosto proponiamogli un apprendistato, un inserimento nel mondo del lavoro, tutto quello che ci va dietro. Non ha senso, non ha alcun senso. Beh, non ha alcun senso, forse indubbiamente, grazie della provocazione, grazie anche della decisione con cui afferma queste cose. Ci sono molti sistemi monocamerali e bicamerali, i sistemi bicamerali sono fatti anche per contemperare i poteri e sono nati dalla Costituzione del dopoguerra, ricordiamolo, anche perché l'Italia veniva da un momento di dittatura e quindi si è cercato nella Costituzione di avere il più possibile in fondo un confronto e anche uno scambio di poteri, non dare tutto il potere solo a un'istituzione. Il bipolarismo è fatto un po' per questo, perché ci possa essere appunto questo confronto all'interno di due poteri diversi. Professor Dalimonte, su questo fronte, ecco, abolire è certamente una misura drastica, però indubbiamente io sono d'accordo con la signora, io sono un abolizionista, sì, ma aboliamo però, completamente. Dato che sono a questo punto, ci sono tanti paesi, anzi la maggior parte dei sistemi al mondo sono parlamentari, sono monocamerali, e l'abolizione del Senato ci sta. Ora, dato che però, oltre che abolizionista, sono anche realista, ritengo che sarà difficile ottenere l'abolizione, certo, del Senato, però va ottenuto quantomeno la riforma radicale del Senato, farne una Camera delle regioni, una Camera delle autonomie e comunque una Camera che non dà la fiducia al governo. Questo è il punto essenziale. Ugo Magri, abolizionista? No, dunque, la cosa che mi colpisce, se posso dirla, è che c'è da parte anche degli ascoltatori vostri, ma di tutti, una grande attenzione che non c'era prima, proprio per alcune scelte di fondo che sono all'origine della Costituzione. Per esempio adesso, nei giorni scorsi, era tema di dibattito politico l'articolo 67 della Costituzione, la possibilità che abbia o meno un vincolo di mandato il parlamentare, la sua libertà di scelta. Si discute se si può fare a meno di un governo della Repubblica, si discute se serve o non serve il Senato, ma sono temi di cui fino a un tempo fa non importava niente a nessuno, adesso sono diventati popolari, accendono gli animi, e sotto questo punto di vista è evidente che il fatto stesso che ci si ponga questi temi significa che è super matura una discussione sulla Costituzione, perché di certe cose evidentemente o non se ne sentono più le ragioni, o comunque è necessario ripensare alle ragioni che hanno fatto in modo che la Costituzione fosse come è adesso. Detto questo, sul Senato stanno effettivamente i saggi lavorando, nel senso di quello che mi hanno detto, che loro propongono di farne un Senato delle regioni, che dovrebbe essere composto solo ed esclusivamente, secondo quello che mi hanno detto, poi non so se hanno cambiato nelle ultime ore, dai rappresentanti delle regioni, quindi non pagati a parte, andrebbero lì semplicemente in quanto inviati dai propri consigli regionali, punto e fine. Quindi si avvicinerebbe un po' alla tesi che dice il professor Dalimonte, almeno cioè nel senso di evitare un bicameralismo perfetto come l'abbiamo avuto fino adesso, che significa anche ripetizioni di procedure, maggiore saggezza, ma forse anche maggiore lentezza. Grazie Ugo Magri, grazie al professor Roberto Dalimonte di appunto essere entrati in questa spiegando appunto la realtà delle cose, la realtà della politica. Sono molti messaggi, non posso dare lettura di tutti, però il tono dei messaggi è soprattutto quello di una protesta contro la politica, dicendo che bisogna cambiare tutto, che non ci rendiamo conto che la politica è cambiata, non è più quello di una volta. Ecco, forse anche l'antipolitica è qualcosa che va preso nel senso positivo, che aiuta la partecipazione. Maggiore la partecipazione, anche arrabbiata, anche drastica, e maggiore è la democrazia. Abbiamo bisogno di democrazia, abbiamo bisogno di partecipazione, abbiamo bisogno di confronti, ma anche di operare, di cose concrete, di fatti concreti. Così come i miei ringraziamenti ad Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Emilio Lucchetti, Valentina Mauri, che in questi giorni ci hanno accompagnato, a Peter Bescapè, a Carmelo Laricella in regia. Io vi ringrazio per questa settimana. Da lunedì torna Alessandro Milan a 24 mattina. 24 mattino.